Core, figlio di Izear, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e Abiram, figli di Eliab, e On, figlio di Pelet, figlio di Ruben, si alzarono contro Mosè, con 250 uomini tra i figli di Israele, capi della comunità, membri del consiglio, uomini ragguardevoli. Si radunarono presso Mosè e Aronne e dissero a loro: «È troppo. Se tutta la comunità è santa e in mezzo a loro è il Signore, perché vi innalzate sull'assemblea del Signore?» Udito questo, Mosè si prostrò sino a terra e disse a Core e a tutta la sua gente: «Domani il Signore farà conoscere chi gli appartiene, chi è santo, e lo farà avvicinare a sé, farà avvicinare a sé il suo eletto. Fate questo: prendete i turiboli di Core e di tutta la sua gente, mettetevi il fuoco e domani ponetevi l'incenso davanti al Signore. L'uomo che il Signore avrà scelto, quello sarà santo. Vi può bastare, figli di Levi». Mosè disse a Core: «Ascoltate, figli di Levi, vi pare forse poco che il Dio di Israele vi abbia separato dalla comunità di Israele per farvi avvicinare a sé, affinché possiate compiere il servizio della dimora del Signore e stare davanti alla comunità per essere suoi ministri? Ti ha avvicinato con tutti i tuoi fratelli, e richiedete anche il sacerdozio. È per questo che tu e tutta la tua comunità vi radunate contro il Signore. E Aronne chi è, perché mormoriate contro di lui?» Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, figli di Eliab. Dissero: «Non veniamo. È poco l'averci fatto uscire da una terra dove scorre latte e miele per farci morire in un deserto, perché tu voglia essere anche principe su noi? Certo, non è ad una terra che scorre latte e miele che ci hai portato, e non ci hai dato in eredità campo e vigna. Vuoi forse cavare gli occhi a questi uomini? Non veniamo». Mosè si arrabbiò molto e disse al Signore: «Non voltarti alla loro offerta. Io non ho tolto neppure un asino a loro e non ho fatto del male a nessuno di essi». Mosè disse a Core: «Tu e tutta la tua gente starete domani davanti al Signore. Vi sarà anche Aronne. Ognuno prenda il proprio incensiere, mettetevi sopra incenso e presentatelo al Signore. 250 incensieri, anche tu e Aronne, ognuno con il proprio incensiere». Ognuno prese il proprio incensiere, lo riempirono di fuoco, vi posero incenso e stettero all'ingresso della tenda del convegno con Mosè ed Aronne. Quando Core ebbe radunato presso di loro tutta la sua gente all'ingresso della tenda del convegno, apparve la gloria del Signore a tutta la comunità. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Separatevi dal mezzo di questa comunità, li divorerò all'istante». Ma essi si prostrarono e dissero: «O Dio, Dio degli spiriti che sono in ogni carne, se uno solo pecca, puoi tu irritarti contro tutta la comunità?» Il Signore rispose a Mosè: «Ordina alla comunità: andatevene dai dintorni della dimora di Core, Datan e Abiram». Mosè si alzò e andò da Datan e Abiram. Lo seguirono gli anziani di Israele. Parlò alla comunità dicendo: «Allontanatevi dalle tende di questi uomini cattivi e non toccate nulla di quello che loro appartiene, per non perire a causa di tutti i loro peccati». Se ne andarono dai dintorni della dimora di Core, Datan e Abiram. Datan e Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle tende, con donne, figli e bambini. Mosè disse: «Con questo saprete che il Signore mi ha mandato a fare tutte queste cose, e non è di testa mia. Se quelli muoiono della morte di ogni uomo, e capita a loro quello che capita ad ogni uomo, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore opera qualcosa e il suolo spalanca la sua bocca, inghiottendo loro e tutto ciò che hanno, e scendono vivi nello Sheol, saprete che questi uomini hanno disprezzato il Signore. Quando ebbe finito di dire tutte queste parole, il suolo che era sotto di loro si spaccò, la terra aprì la sua bocca e inghiottì loro, le loro tende, tutti gli uomini di Core e tutte le sostanze. Essi, con tutto quello che avevano, scesero vivi nello Sheol. La terra li ricoprì e scomparvero dal mezzo dell'assemblea. Tutto Israele che era intorno a loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: che la terra non ci inghiottisca. Un fuoco uscì dal Signore e divorò i 250 uomini che presentavano l'incenso.